Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Prendi una matita. Sentito una matita colorata di Mina. Oggi di che parliamo? Parliamo di matite, della fabbrica delle matite di Fila, che vuol dire fabbrica italiana lapis e affini. Ne parliamo perché è un'importante azienda manifatturiera, 275 milioni di fatturato, che si è più che decuplicato rispetto a quello che era dagli anni 90, ma anche perché è una delle poche realtà industriali che invece di essere acquisite comprano all'estero, e questo ci interessa e ci colpisce particolarmente. Tu puoi comprare all'estero quando hai un valore aggiunto, un utile che ti consente di farlo, e questo è il caso di Fila, che è un gruppo molto moderno nonostante abbia una storia antica, e anche, come vedremo, un pioniere delle operazioni di finanza strutturata avanzata. Pensate che la Fila è stata fondata a Firenze nel 1920 da due nobiluomini discendenti dalle famiglie Antinori e della Gherardesca. Poi negli anni 50 c'è stato uno dei primi management buyout, nel senso che il nonno del dottor Candela, che è l'amministratore delegato, che è nostro ospite, era un manager e insieme ad altri ha raccolto i capitali, l'ha acquistata e l'ha fatta crescere. Ma salutiamo il dottor Candela, buongiorno. Buongiorno, buongiorno e grazie. Allora, voi avete raggiunto quota 275 milioni e lei ha moltiplicato per 12 il fatturato di 23 milioni con i quali si è trovato l'azienda. Avete fatto un sacco di acquisizioni, tra cui quella vecchia del Pongo e quella ultima dell'inglese Daler Rowney Lucas, e vi siete quotati in borsa. E adesso che fate? Adesso abbiamo firmato un accordo di esclusiva per acquisire un'azienda meravigliosa francese che si chiama Canson, che è il leader mondiale della carta da disegno per i bambini e della carta da disegno, la carta su cui si colora, sostanzialmente su cui si utilizzano i nostri prodotti, perché stiamo vedendo che è importante avere un'offerta il più completo possibile per il mercato ci sta premiando, questa è un'azienda che è leader in quasi 70 paesi del mondo, stiamo aspettando l'approvazione da parte delle organizzazioni sindacali francesi, ma penso che non ci saranno problemi, per cui conclusa questa operazione, diciamo dopo l'estate, il nostro fatturato arriverà a quasi 500 milioni. Accidenti, no, ma come fate? Cos'è, uno scambio azionario? Un aumento di capitale, utilizzate i soldi della borsa, come fate a comprarlo? Dunque, sicuramente abbiamo con l'aumento di capitale nell'ingresso in borsa abbiamo una struttura finanziaria direi ottimale, perché l'azienda è molto redditizia e non aveva debiti fino a 5 mesi fa. Abbiamo lavorato con i nostri fornitori storici di credito, che sono Banca Intesa, Unicredit, BNP Paribas e Mediobanca, e ci hanno dato la finanza sufficiente per acquisire, quindi abbiamo messo... Siete uno dei pochi gruppi italiani che sono dei predatori e non delle prede. Io ho un sacco di cose da chiederle, però adesso dobbiamo interromperci per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Prendi una matita. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Massimo Candela, amministratore delegato di Fila, che peraltro è l'azienda di famiglia, gruppo famoso per le matite e un sacco di altri prodotti collaterali, tra cui il tratto pen, che io personalmente uso, e che è un gruppo che è A, un'importante realtà manifatturiera, e B, un importante acquisitore. Parliamo di manifatturiero. La vostra fabbrica storica è quella di Firenze, no? Che è ancora attiva. Ce la racconta un po', tutte le matite Fila vengono da lì o ci sono anche altri impianti produttivi? Guardi, La fabbrica storica è certamente quella di Firenze. Mio nonno e poi mio papà mi hanno trasferito un messaggio molto importante, che era quello di investire sempre nella produzione, perché la produzione ti dà apertura a grandi conoscenze, a ricerca, a sviluppo e a dei vantaggi competitivi che poi riesci, come dire, a trasferire a livello globale. Quindi tutte le matite sono fatte a Firenze, nelle altre fabbriche vengono fatti gli altri prodotti? Le matite vengono fatte in tantissimi stabilimenti del mondo perché nel nostro settore ci sono politiche governative doganali, per cui in molti paesi siamo obbligati a produrre localmente. Quindi diciamo farete quelle dedicate all'Europa a Firenze? Non facciamo più matite a Firenze, le facciamo in Germania, però a Firenze facciamo il DAS, il Pongo, facciamo i pennarelli, che sono uno dei settori che sta crescendo di più, quindi il pennarello Turbo Color della Giotto, facciamo il Se si usano meno matite nel mondo? Io in effetti ne vedo poche. Se ne usano sempre di più. Ah sì, come mai? Ma intanto la matita, anche nei momenti in cui sembrava se ne usassero meno, in realtà non sono mai calate. In questi anni le matite sono invece in forte crescita perché nei paesi nuovi, quelli in via di sviluppo, quindi per capirsi l'India, il Brasile, il Messico, i bambini vanno sempre più a scuola e colorano sempre di più. E invece per quanto riguarda i nostri paesi, noi stiamo notando una forte ricerca di manualità, di ricerca di passare del tempo a colorare per distrarsi. Bellissimo, ecco, sulla fabbrica delle matite di Firenze io ho trovato un bellissimo frame del 1936 dell'Istituto Luce che adesso vi faccio sentire. Un'occhiata in una fabbrica di matite, una lunga batteria di mulini è adibita a macinare la grafite e l'argilla per ottenere una pasta da cui si ricava la mina del lapis da disegno. Altrove si calandra la pasta del lapis a colori. Poi questi impasti confluiscono alle presse dove attraverso un foro del diametro voluto si riducono ad un filo lucido e tenace che l'operaia rompe e distende su apposite tavolette. Bisogna ora rivestire di legno le mine, lavoro svolto da varie macchine. E rieccoci in linea con il dottor Candela. No, adesso le matite non si faranno più così, immagino, no? Ma in realtà il processo produttivo è evoluto meno di quanto per esempio la tecnologia sia evoluta in questi anni. In realtà quello che è cambiato molto è l'approccio dell'azienda. Noi oggi siamo integrati a monte, abbiamo delle piantagioni, proprio alberi nostri che ripiantiamo, che utilizziamo per produrre le nostre matite e li abbiamo piantati in Cina. Abbiamo accessi esclusivi a forniture di legname in India, in Messico. Per cui abbiamo un processo integrato che ci garantisce di tenere sotto controllo la qualità. E la matita è un prodotto molto difficile da produrre, altrimenti non si potrebbe capire come mai nel 2016 si riescono ancora a fare ottimi margini e ottime crescite, perché è un prodotto molto difficile da produrre in grandi quantità. Sarà anche per questo che la borsa vi ha premiati, cioè voi vi siete quotati nel 2015 e lì siete andati abbastanza bene, ma questo è normale perché la borsa tirava. Dopodiché c'è stato il grande crollo del 2016 e voi vi siete salvati da questo crollo, anzi il titolo è anche cresciuto un pochino. Io penso che la borsa apprezzi la nostra strategia, nel senso che hanno capito che noi abbiamo un approccio, noi ci siamo quotati perché avevamo veramente un progetto industriale importante di crescita e di acquisizione. Quindi per noi, e questa è una cosa molto importante, per noi la borsa non era un punto d'arrivo, ma era un punto di partenza. Sulla storia di Fila vorrei farvi sentire questa scheda. Fila nasce a Firenze nel 1920 dall'intuizione di due discendenti delle famiglie nobili Antinori e della Gherardesca, che vollero creare un'alternativa industriale italiana nel settore della scrittura e del disegno, ai tempi monopolizzato dai tedeschi. La scelta del giglio, la cui stilizzazione venne affidata a Severo Pozzati in arte Sebo, fu giustificata da due ragioni. Era ed è da sempre simbolo di Firenze, ma anche l'emblema e il collegamento tra arte e storia. Fin da subito ci fu una predilezione per i simboli e i riferimenti tipici del Rinascimento e della storia artistica italiana. Dal termine arcaico lapis, tanto amato da Leonardo da Vinci e tuttora presente nell'acronimo aziendale, alla nascita del primo marchio dedicato al colore e all'espressione creativa. È la gamma Giotto, sinonimo dell'arte immortale, e che in pochi anni contribuirà a liberare l'espressione creativa degli italiani nelle scuole e nella quotidianità. Nel 1956 un gruppo di dipendenti capitanati da Renato Candela rileva l'azienda ed inizia a trasformarla in una realtà produttiva solida a livello nazionale. La nuova dirigenza punta sulla comunicazione e promuove i prodotti attraverso tecniche e materiali innovativi per l'epoca. Display cartotecnici per le vetrine, i primi espositori da banco, la serie di segnalibri diventati oggetto di culto e collezione. Ma anche la sponsorizzazione di eventi dedicati all'arte e all'espressione creativa di bambini, ragazzi e adulti attraverso concorsi e mostre didattiche. Nel 1964 Alberto Candela succede al padre Renato. Fila punta su nuovi prodotti, immagini e stile. Nascono Giotto Fibra, antesignano dei pennarelli colorati, e la linea Tiziano, dedicata ad artisti professionisti e amatoriali. Nel 1973 nasce Tratto Pen, il pennarello da scrittura, che riscuote un tale successo da essere ricompensato nel 1979 con il prestigioso Compasso d'Oro, conquistando poi anche un posto al MoMA di New York. Negli anni 80 Fila introduce nel mercato roller, evidenziatori, correttori, portamine, i nuovi pennarelli Giotto Turbo. L'obiettivo era quello di aprire nuovi mercati e acquisire la leadership nel settore dell'espressione creativa. Nel 1992 Massimo Candela, figlio di Alberto, subentra al padre e diventa amministratore delegato. È la terza generazione che punta su internazionalizzazione ed acquisizioni. Nel giro di 20 anni lo sviluppo è tale da decuplicare il fatturato, passato dai 23 milioni del 1993 ai 275 del 2015. Vengono comprate l'italiana Adica Pongo, la statunitense Dixon Ticonderoga, la brasiliana Lisin, la messicana La Pizzeria Mexicana, l'inglese Daler Roney Lucas. Ai due stabilimenti produttivi italiani vengono affiancati altri 12 all'estero. I dipendenti sono 6.000. Nel 2015 la società sbarca in borsa. Subito dopo, come presidente della società, viene chiamato il noto manager Gianni Mion. Rieccoci in linea dopo la scheda, dalla quale emerge che è un'azienda che ha sempre cavalcato la modernità, non solo per il fatto che negli anni 50 hanno fatto un management buyout che nessuno manco sapeva cosa fosse all'epoca, ma anche per le acquisizioni e per la modalità con la quale si sono quotati in borsa, utilizzando la modalità della SPAC. Le SPAC sono queste società di investimento quotate senza uno scopo preciso e poi trovano lo scopo lungo la via, e quindi praticamente loro si sono fusi con la SPAC. E questo è stato in qualche modo vantaggioso ed è anche uno dei motivi, oltre al piano industriale serio, per il successo del titolo. No, dottor Candela? Mi spieghi bene anche il meccanismo, mi dica se ho sbagliato. No, l'ha descritto correttamente, anche se devo dire io stesso ci ho impiegato un po' di tempo a capirlo. Però sostanzialmente la SPAC è una scatola è una scatola che ha del denaro. Cioè non è vuota perché ha i soldi, quindi. Esatto, è una scatola... Esattamente, una scatola molto piena di soldi e dei manager, devo dire, molto capaci nel mio caso, che hanno selezionato diversi progetti, ne hanno valutato la tenuta industriale, le prospettive e, aggiungo io, fortunatamente hanno scelto Fila, per cui poi si è passati tramite un processo di fusione, per cui Fila si è trovata quotata al posto della SPAC, della SPAC che si chiamava Space. Qual è il grande vantaggio per un'azienda industriale? Che non ha l'incertezza del successo del processo di quotazione. Quindi noi avevamo la certezza di quotarci, avevamo la certezza dell'ammontare di denaro che a seguito della fusione noi avremmo trovato in Fila, mm-hmm. E abbiamo potuto accelerare su dei progetti che proprio noi finanziariamente non potevamo permetterci. Senta una cosa, voi avete anche fatto un importante processo di crescita in India. Ce lo racconta nell'ultimo minuto che ci resta? Sì. È stata un'esperienza umana e professionale fantastica, abbiamo trovato degli imprenditori indiani ai quali certamente mancava della cultura, ma non mancava la gran voglia di crescere, di investire. Pensi che ci sono più di 300 milioni di bambini sotto gli 8 anni, uh-huh. Abbiamo sposato due culture molto diverse, voi immaginate un imprenditore indiano che accetta di aprire il capitale sociale a un'azienda italiana, è una cosa che ha del miracoloso. Questa azienda in 4 anni ha quintuplicato il fatturato, è diventata un'azienda molto redditizia, è entrata fra i primi 50 marchi indiani in termini di crescita si sono fuse culture diverse, esperienze diverse, con un obiettivo comune che è quello di costruire un'azienda solida, una produzione che dà lavoro a tantissime famiglie. Ci sono 2700 famiglie indiane che lavorano in questo stabilimento e siamo anche molto molto orgogliosi del rapporto che abbiamo creato con il nostro socio indiano. Certamente, io parlerei ancora con lei per delle ore, ma il tempo è tiranno, per cui la ringrazio. Grazie a lei. E saluto gli ascoltatori, ai quali do appuntamento a sabato prossimo alle ore 14.